Radio 24 Reportage. Le amministrative di Radio 24. In metro attraverso la città di Milano, tra vecchi orgogli e nuove sfide. Di Raffaella Calandra. Di alcuni padiglioni resta solo lo scheletro, altri sono già diventati altrove dei ristoranti. Ma all'interno di quello che fu il sito Expo ora si cammina soprattutto tra macerie e gru, che dovranno far spazio a progetti per la maggior parte ancora da definire. Ma è comunque qui, all'incrocio tra Cardo e Decumano, che nel bene e nel male Milano continua a guardare, interrogandosi su se stessa e sul suo futuro anche politico. Milano in questo momento sta rinascendo, che rimette un po' di piste ciclabili, lei anche a Milano, la Gran Milano. Noi milanesi ci adeguiamo a tutto, abbiamo il cuore aperto per tutti. Il motore dell'Italia è Milano. I vari candidati sono dati da fare. Cosa si augura per Milano? Che ci sia meno traffico, che si mantenga bella come adesso. Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. La scia di Expo dura ancora nella città che per il New York Times fu a place to be. Gli alberghi registrano il 60% di stanze occupate, anche ora in bassa stagione, e le più diverse lingue si sentono all'ombra dei nuovi grattacieli o sulla darsena riaperta. Ma altrettanto evidente resta nelle periferie, dove si consuma la battaglia per la casa o nel silenzio dei quartieri dormitorio, la sofferenza di una crisi economica senza precedenti. Così, mai come ora, sembrano esserci due facce diverse nella stessa Milano, che si prepara col voto del 5 giugno ad entrare in ogni caso, al di là dell'esito delle urne, in una stagione nuova rispetto alla rivoluzione arancione di Giuliano Pisapia. Io dico che in metropolitana si ha la sensazione fisica della concittadinanza, del fatto di vivere in una metropoli, non in una di quelle città che è sotto i portici, si incontrano tutti, e anche un po' orgogliosa della sua efficienza. Lasciati in superficie stereotipi, luccichii e happy hour, è forse qui, tra le linee rossa, gialla, verde e lilla del metrò, raccontati da un milanese doc come Stefano Bartezzaghi in M, una metronovela, che si entra nelle viscere della città che cambia. La Milano veloce in realtà la forma paradossalmente di una lumaca. E una lumaca che però ora appunto estende le sue spirali, estende anche la rete della metropolitana. Ed è una città in cui sono già uscite dal centro, ma ci sono molti centri fuori dal centro di Milano. Città con un duomo in mezzo che è sempre stata rivolta verso il centro, adesso invece esce, rivaluta gli spazi che prima erano spazi soltanto industriali, crea dei centri diversi. Mamma, che ne dici di un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero, Piero. Da Roffi era sesto, dalla Comasina a San Donato, i candidati a Palazzo Marino, più di 10, ora vanno in giro a raccontare la loro idea di città, a cominciare dal primo sceso in campo, Beppe Sala, centro-sinistra, ex Mister Expo. Credo che appunto ci sia questa percezione di essere su un'onda e la bisogna cavalcare. Quindi noi dobbiamo essere attrattivi per l'estero, che vuol dire investimenti stranieri. Quella che non vorrei è una città a due velocità. Questo tema di periferia, per un tema di fondi, probabilmente non si è fatto abbastanza. Magari vendiamo una parte delle nostre quote nelle partecipate e mettiamo mano a un problema che c'è. Con la velocità di una corsa in metro andiamo dal centro in periferia anche con Stefano Parisi, centrodestra, che attribuisce i traguardi di oggi al lavoro anche delle passate giunte, a cui lui come city manager ha pure lavorato con Gabriele Albertini. Milano ha visto in questi ultimi anni una forte trasformazione anche urbana, lo skyline di Milano è molto cambiato, insomma. Sicuramente un merito di Expo ed è stata anche ben gestita. Milano deve essere una città sempre più attrattiva, non deve essere soltanto luogo di grandi eventi come adesso. adesso. Milano io credo sia la porta d'Italia. Esiste un rischio balia secondo lei a Milano? Certo che esiste. Quando una casa è occupata per il 50% da immigrati che non vengono sgomberati e l'altro 50% sono famiglie di persone di solito anziane che vivono nella paura, dove la polizia di Milano non mette più piede, questo succede oggi a Milano nei mesi dell'Expo. Se lo lasciamo andare, questo fenomeno esplode. Milano rischia di, in certi quartieri rischia di esplodere. Bisogna anche andare nei quartieri centrali, ormai è così. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Anche se Quarto Giaro o Lorenteggio nulla hanno a che fare con le banlieue parigine o con la belga Molenbeek, è comunque qui, in questi casermoni di periferia, che si annida quello che già il sociologo Aldo Bonomi definì il rancore. Quel malessere del nord ha aumentato con le varie emergenze e immigrazione che portano a fare i conti con una città sempre più multietnica, dove più del 18% dei residenti, 248.000 stando ai dati dell'anno scorso, è straniero. Ma i musulmani a Milano avranno una moschea? A metà tra il sì convinto di Sala, anche se il disagio forse deve essere condiviso in più aree, dice, e il consenso obtorto collo di Parisi, che non ci sta all'idea di una moschea proprio all'ingresso della città, non sceglie su un progetto, ma si concentra piuttosto su una questione. Gianluca Corrado, candidato dei 5 Stelle. Attualmente i musulmani sono costretti a pregare in situazioni di illegalità totale, pericolosa per loro e per i cittadini milanesi. Dobbiamo vagliare se effettivamente è opportuno fare una grande moschea, quello che era il progetto dell'attuale giunta, sulla quale però noi non siamo particolarmente convinti, o se invece valutare l'opportunità anche e soprattutto con i cittadini, con i credenti stessi della regione musulmana e con i servizi di sicurezza, di realizzare tanti piccoli luoghi, così come sul modello attuale, ma rendendoli legali, rendendoli sicuri, sparsi per la città, dove poter riconoscere il diritto di culto senza aggregazioni che potrebbero risultare pericolose. La cosa fondamentale però è quella di avere tracciabilità dei fondi con i quali questi edifici vengono realizzati. Gli ultimi arresti di aspiranti jihadisti alimentano il fuoco della paura nei vari cerchi di Milano, che, per dirla con Umberto Eco, compongono una spirale e diventano infiammabile tema da campagna elettorale, ma pure di complessi equilibrismi per tenere insieme, ad esempio, nel centrodestra l'anima leghista e quella ciellina. Inevitabili le maggioranze ampie, minimizza Parisi, che ammette però distanze da Salvini, soprattutto quando si scaglia contro l'ex capo dello Stato. Dentro la mia coalizione non c'è una ragione e un torto, cioè non c'è la ragione di chi vuole gestire il problema dell'immigrazione e il torto di chi, come si dice, butta benzina sul fuoco. No, penso ci siano due ragioni: la ragione di chi oggi teme perché c'è un problema di non gestione del fenomeno immigrazione, quindi c'è una paura e c'è un rifiuto addirittura dell'immigrazione che è sbagliato, e dall'altra parte ci siamo noi che vogliamo risolvere quel problema, quindi fare in modo che la gente non abbia più paura. La paura esiste, basta girare per Milano, è molto più ampia degli stessi voti che intercetta Salvini. Ma anche se a Roma si lanciano coltelli, sotto al Duomo i partiti di centrodestra convergono su un unico candidato. Nel centrosinistra risanate le fratture delle primarie, ma presentata pure la lista Milano in Comune di Basilio Rizzo, resta l'incertezza di parte del popolo della rivoluzione arancione, atteso soprattutto al varco di un eventuale ballottaggio. Ed è una lettura politica nazionale che ora Sala teme. Nel centrosinistra c'è un partito che è il PD e c'è un leader che è Renzi che esprimono una leadership. Dall'altra parte è chiaro che siamo nel mezzo di una potente guerra per la definizione di una leadership. Non pensa che in qualche modo queste elezioni milanesi possono essere ancora una volta anche un voto sulla leadership di Renzi? Lo teme? Possibile, io sto facendo di tutto per portare il dibattito su Milano, tutto obiettivamente può essere. E la cosa positiva è che oggi il centrosinistra Milano comunque è unito. Abbiamo certamente fuori una parte. Come bella la la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Restano uno dei simboli di Milano, i marmi del Piacentini che compongono il Palazzo di Giustizia da cui partì Mani Pulite. E la questione morale, dopo anche le inchieste che travolsero alcuni funzionari di Expo, si è imposta a tema politico qui. Sala Sventola ha il codice etico firmato nella sua coalizione e accusa Parisi di avere condannati in lista. Il candidato di centrosinistra raccoglie la proposta del grillino Corrado e mette online il suo 7:30 con successive critiche per la mancanza della voce sugli investimenti esteri. Quella dichiarazione io l'ho fatta dopo averci pagato le tasse. Allora, siccome non sono un pirla, non è che io vado, pago le tasse, le metto sul 7:30 e poi faccio finta di nascondere la verità su un'autocertificazione. Parisi invece non lo fa ed esclude, in caso dovesse sedere sullo scranno più alto di Palazzo Marino, la conservazione della commissione antimafia voluta da Pisapia. L'antimafia la deve fare la magistratura a Milano, giustamente, e la devono fare le forze dell'ordine. Che ci sia una generica commissione antimafia è un fatto dimostrativo, è una bandierina per dire noi non siamo contro la mafia, ci mancherebbe altro. Io non ho voluto mandare le liste elettorali alla Rosi Bindi perché penso che noi dobbiamo rispettare la legge si chiama legge Severino. Non ci sono tra i nostri candidati persone incandidabili, non ci sono neanche persone che sarebbero sospese qualora potessero essere candidate. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Prospettano un assessorato specifico invece i grillini, come anticipa Corrado. Per quanto riguarda l'invio delle liste, ovviamente non abbiamo nulla in contrario, sappiamo di non avere nessun problema in questo senso, le persone che sono all'interno delle nostre liste sono dei cittadini comuni. Per quanto riguarda la commissione antimafia voluta da Pisapia, noi abbiamo previsto uno specifico assessorato alla legalità, al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, quindi molto probabilmente la primaria attività verrebbe ricondotta a questo assessorato. Non escludiamo, poi valuteremo sotto un profilo meramente burocratico se è opportuno mantenere anche una commissione consiliare o meno. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. E poi ancora i diritti delle famiglie arcobaleno, ma pure la questione dei grossisti cinesi, il progetto dello Human Technopole per il dopo Expo o l'idea di un campus universitario, i grattacieli e le piste ciclabili. I temi di confronto e scontro si allungano, ma allora forse davvero bisogna fermarsi sui gradini delle scale mobili, scendere nella tube iperconnessa e incontrare qui, tra i vagoni di un metro molto efficiente e con poca concessione all'estetica, la città più autentica, perché, nota Bartezzaghi, preterintenzionale. La metropolitana è un progetto unitario e lì è proprio in quel momento in cui tutti guardano magari i loro telefonini, leggono i loro giornali, non incrociano lo sguardo, che si incontra la città senza la distrazione delle vetrine, dei suoli, di quelle cose che cantava Gaber tanti anni fa. Se se ne coglie un'identità preterintenzionale e che forse è più vera delle altre proprio per questo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.